e tutta la... Restoradio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Eccoci qui, 1:47 del mattino, sempre sabato 17 novembre del 2018. Continuiamo a raccontare questa serata dalle voci dei nostri festeggiati, dei nostri protagonisti. Abbiamo qui un'altra grande protagonista di questa serata. Vi presentiamo Silvia, benvenuta. Ciao a tutti. Oh, senti com'è ancora squillante all'1:48 del mattino. Ancora energie, ancora energie. Ma la prova del 9 sarà domattina. Vogliamo vederti domattina se sarai in modalità zombie o se sarai ancora presente. Domani mattina mi vedrà mio marito, però. Sì, no, vederti nel senso, okay. vogliamo pensarti e capire. Grazie, ringraziamo tra l'altro l'addetta Enel che ha deciso di tagliarci la bolletta in tutto questo. Dicevo, perché sei una che, come dire, soffre questo tipo di serate o hai la tempra ancora dura? No, sono molto dura io. Sì, quindi sì, domani sì. Non accuserai il colpo. No. Non accusi il colpo. Assolutamente. Oh, brava. Allora dovete sapere che Silvia sta festeggiando una serata importante, ma mi permetterò di dire però un antipasto di serata importante, perché la grande serata sarà l'anno prossimo, o no? Esatto. Raccontaci un po'. Sì, perché quest'anno faccio 39 anni, l'anno prossimo saranno 40, prossimo, almeno spero di arrivarci. Ma certo che ci arriverai. Quindi se già arrivo farò un super festone, il convento sarà tutto mio. No, assolutamente, noi siamo qui apposta per promuovere, anzi guarda, noi ci stiamo già muovendo col dovuto anticipo, promuovendo la festa dell'anno prossimo. Ovvio, cioè... perché io... Allora, se calcoliamo i 9 mesi di gravidanza, no? Io sono già... Addirittura? Nella pancia di mia mamma... Sì? Parla? Sì. Non so, ci sono delle intruse. Sono stata per 9 mesi. Sì. Quindi, in teoria, io sono già verso i 40. Cioè, certo, giusto, matematicamente, sì, giusto. Non me li sento, però ci sono. Perfetto. Infatti, ripeto... Ma ben vengano. Certo, ripeto che questa serata è proprio l'antipasto, la preparazione alla grande festa dell'anno prossimo. È stato tutto organizzato in attesa di guarda, vedi, tu già tutte loro stanno pensando a come saranno del 17-18 novembre del 2019, chi avrà figli, chi non avrà figli, chi avrà cambiato il taglio di capelli, insomma. Esatto. non lo so. Sì, si stanno già preparando, stanno già facendo progetti. Gente, cosa fa qui? Non lo so, ci sono questi scambi di effusione amorose tra questa ragazza e il ragazzo fuori, poi probabilmente si picchieranno una volta che finiremo l'intervista. Allora, non ci hai ancora detto da dove vieni intanto? Da Castiglione delle Stiviere. Ok, quindi provincia di Mantova. Sì, esatto. E non ci hai ancora detto, intanto lei continua a litigare con tutti. No, ma non fa niente. Sì, no, ma è normale. Esatto, immagino. Dicevo, non ci hai ancora detto e ci interessa tantissimo saperlo, chi ti accompagna qui questa sera? Allora, questa accanto a me è mia mamma. Uè, la mamma, che bello! Sai che non l'avrei, cioè già solo per il colore dei capelli non l'avrei mai detto. Neanche un euro ci avrei messi. Neanche io, però è mia mamma. Ancora si stai chiedendo, bene. Mamma. Poi, mia collega da un anno, mia carissima amica. Benissimo, però da un anno, benissimo. Ok. Monia, un'altra mia carissima amica, però da una vita, da tantissimi anni. Ida, un'altra mia carissima amica. Aspettane. Marisa, un'altra mia carissima amica, e Claudia, carissima amica e testimone di nozze. Oh, fantastico, quindi già ti accompagna. Sono tutte mie carissime amiche, le quali voglio un gran bene. Sì. Bello. Sì. Beh, come è giusto che sia, bisogna contornarsi e circondarsi. Poche, ma buone. Esatto, delle persone più importanti in queste serate. Bene, ci fa piacere. Poi ci dicevi che comunque già l'ultimo anno tuo è stato un anno di cambiamenti passi importanti. Sì. Che ci racconti? Perché mi sono sposata l'anno scorso, dopo tanti anni duri. Sì. E quindi per me è stato un anno importante. Che finalmente ha portato, non lo immagino. Un grande cambiamento. Lo immagino, perché ce ne hai già parlato tanto, quindi vuol dire che sei veramente felice, si traspare dalle tue parole. E quindi è un anno di rivoluzione, di grandi cambiamenti, finalmente positivi. Esatto, sì. Oh, bello. Poi dovete sapere... Ho un figlio. Ah, hai un figlio? Sì. Bene. Che ha 15 anni, tra un po' 16. Che si chiama? Mattias. Che quindi no, non è nato recentemente. No. Non è nato nell'ultimo anno, quindi questa non è stata una rivoluzione. È nato nel 2003, ma è tutta la mia vita. Ah, bene, bene, benissimo. Vuoi fargli un saluto? Sì, ciao amore mio. Perfetto. No, dicevo che stavo notando il particolare del brillantino. Brillantino, sì. Del brillantino sul canino, che fa anche rima. È un canino. È canino. E no, spiegaci un po', cos'è quella è cosa? È un brillantino, sì. Sì. È un brillantino che io adoro. Ma è fissato come? No, è con il laser, non è bucato. Ah, con il laser, sì. Quindi comunque non viene via. Ogni volta che si stacca lo riattacco. Ah, si stacca? Si può staccare? Sì, dura 5 anni e poi si riattacca. Ah, beh, 5 anni? Sì. Ma perdonami la domanda ignorante, cioè, a me piace proprio essere pratico. Dimmi. Cioè, se ti lavi i denti non va giù? No, se mi va giù lo riattacco. Cioè, nel senso, vado dal dentista, bellissimo, vado dal dentista e me lo faccio riattaccare. Ah, ok, però c'è probabilità, c'è possibilità comunque, sì, che si possa staccare. Sì, spendi €50, te lo riattacchi. Quindi meglio che tu ci stia attenta. E come mai te lo sei fatto? C'è un motivo? Perché una donna brillante ha bisogno di un brillante. Bello, mi piace, brillante mi piace. Non è un diamante al dito, ma è un qualcosa che brilli, no? Bello, bello, mi piace. Ecco, quindi è... Perché capisci che comunque, perdonami, è molto particolare come scelta, sì, no? È molto strana, c'è chi va il tatuaggio, il piercing, Io sono piena di tatuaggi, no, ma non mi interessa, okay. Però quella è una però scelta particolare. È una cosa, sì. Brava, mi piace. Qualcuna delle ragazze presenti vuol dire qualcosa alla nostra Silvia? Dai, dite qualcosa! Evviva! La ma io voglio sentire... Pippi Purrà sicuramente. Pippi Purrà è vecchia. Io mi spiace, io voglio sentire la mamma, però la mi perdonerai. Voglio sentire la mamma e anche io e anche nonna. Io voglio troppo bene a mia figlia. Il mio amore è questo, mio amore. Oh, bello. Cuore di mamma e cuore di nonna. Cuore di mamma, cuore di nonna. Tra l'altro bellissimo che comunque sia qui a far festa con lei, cioè una bellissima cosa, veramente stupenda. E dovete sapere, mi perdoneranno le altre amiche, che all'1.54 la mamma è la più vispa di tutte. È la più vispa di tutte, ripeto, mi perdonerete, ma è un dato di fatto, è un dato oggettivo, è veramente carichissima e non si è ancora fermata un attimo, continua a ballare, continua ininterrottamente a ballare, quindi questo è molto molto bello. E... Adriana, ho ballato con te, non mi sono mai fermata. Sì? Ah, brava, li tieni in testa, è una sfida interna, sfida in famiglia. E qualcun altro vuol dire qualcosa? Volete dire qualcosa? Che mi volete bene? Lo so, cioè... Tanto bene! Vai Monia, parla che tanto... No, ce l'hai lì, guarda, ce l'hai lì già acceso. Io volevo dirti a te, Silvia, sì, che ti voglio un mondo di bene. Anche io. Bello, oh, bello. Perché io ti voglio tanto bene. Bello. Tutte quante ti vogliamo tutte. E sappiate che la cosa importante di questo messaggio è che non sono pagate per dirlo. Cioè, nel senso, non sono comprate, non è pubblico comprato. È tutta sincerità e... Dovevate ridere in questo momento, però... Hanno capito adesso la battuta. Io ci ho provato, ma è andata male. Bene, Silvia, in chiusura vuoi dire qualcosa tu? Ma niente, grazie al tutto, loro stanno cantando nella vecchia fattoria nel frattempo. Di avermi fatto sorridere e buona serata a tutti. Bene, e buonanotte noi... A tutti. Ciao a tutti ragazzi, divertitevi, buona assolutamente serata a tutti. E mi sembra giusto chiudere col grande invito che vi facciamo per il 2019 alla grande festa dei 40 che cominceremo a preparare già dalle prossime ore. Perché esatto! Giustamente... Per essere perfette e brillante come Silvia chiede, dobbiamo essere perfette e brillanti. E tantissimi. Curare ogni dettaglio, essere veramente tanti, lo saremo. Grazie mille ragazzi, grazie alla prossima e buonanotte. Buonanotte.